Riunendomi a Robert e ai suoi amici, evitai di confessare che il mio cuore non era più con loro, che la mia partenza era ormai irrevocabilmente decisa. Saint Loup fece mostra di credermi, ma seppi poi come, sin dal primo istante, avesse capito che la mia incertezza era simulata e che l'indomani non m'avrebbe più ritrovato. Mentre i suoi amici, lasciando che i piatti si raffreddassero accanto a loro, cercavano assieme a lui nell'orario ferroviario quale treno potessi prendere per tornare a Parigi, e dalla notte fredda e stellata giungevano i fischi delle locomotive, non provavo più certamente la pace che tante volte, in quello stesso luogo, mi avevano dato l'amicizia dei primi e il lontano passaggio delle seconde. Eppure, anche quella sera, essi non mancavano, sia pure in altra forma, al medesimo ufficio. La partenza mi parve meno opprimente quando non fui più costretto a pensarci da solo, quando sentii che a quanto doveva succedere si applicava l'attività più normale e più sana dei miei energici amici, i colleghi di Robert, e degli altri esseri forti, i treni, il cui andare e venire mattino e sera da Donziera a Parigi sbriciolava retrospettivamente l'insostenibile compattezza del mio lungo isolamento dalla nonna in quotidiane possibilità di ritorno. «Non metto in dubbio la veridicità delle tue parole. Certo non hai ancora deciso di partire», mi disse Saint Loup ridendo. «Ma fa come se partissi e vieni a salutarmi domattina di buon'ora, altrimenti corro il rischio di non rivederti. Vado fuori a colazione e il capitano m'ha dato il permesso. Devo essere di ritorno in caserma per le due perché c'è una marcia che dura tutto il giorno. Il signore che mi ha invitato a casa sua, a 3 chilometri da qui, mi riaccompagnerà in tempo di sicuro». Stava ancora parlando che vennero a cercarmi dal mio albergo. Avevano chiesto di me al telefono, dalla posta. Mi affrettai perché stava per chiudere. La parola interurbana ricorreva senza posa nelle risposte degli impiegati. Ero al colmo dell'ansia, la chiamata veniva dalla nonna. L'ufficio stava per chiudere, finalmente ottenni la comunicazione. «Sei tu, nonna?» Una voce femminile con un forte accento inglese mi rispose: «Sì, ma non riconosco la vostra voce». Nemmeno io riconoscevo quella voce. E poi la nonna non mi dava del voi. Alla fine si chiarì ogni cosa. Il giovane che sua nonna aveva mandato a chiamare al telefono portava un cognome quasi identico al mio e abitava in una dépendance dell'albergo. Poiché mi avevano interpellato lo stesso giorno in cui avevo tentato di richiamare la nonna, non avevo minimamente dubitato che si trattasse di lei che chiedeva di me. Per una pura coincidenza, la posta e l'albergo avevano commesso un duplice errore. La mattina dopo feci tardi. Non trovai Saint Loup già partito per il castello dove era atteso a colazione. Verso 1:30, ma prestavo a raggiungere ad ogni buon conto la caserma per essere là al suo ritorno, quando, attraversando uno dei viali che dovevo percorrere, vidi un tilbury che procedeva nella mia stessa direzione e, passandomi accanto, mi costrinse a scansarmi. Lo conduceva un sottufficiale col monocolo. Era Saint Loup. Al suo fianco sedeva l'amico dal quale aveva fatto colazione e che avevo già incontrato una volta nell'albergo dove Robert pranzava. Poiché non era solo, non osai chiamare Robert, ma desiderando che si fermasse per farmi salire, pensai d'attirarne l'attenzione con una gran scappellata, giustificata, secondo me, dalla presenza di uno sconosciuto. Conoscevo la miopia di Robert, ma pensavo che, se appena m'avesse intravisto, non avrebbe mancato di riconoscermi. Ora, egli si avvide del saluto e lo ricambiò, ma senza fermarsi. E mentre si allontanava di gran carriera, senza un sorriso, senza che un solo muscolo del suo viso si muovesse, si limitò a tenere per qualche istante la mano alzata alla visiera del képi, come se stesse rispondendo al saluto di un anonimo soldato. Corsi fino alla caserma, ma era ancora lontana. Quando ci arrivai, il reggimento si stava incolonnando nel cortile dove non mi fu concesso di restare, ed ero desolato di non aver potuto dire addio a Saint Loup. Salì nella sua stanza e non c'era più. Chiesi di lui a un gruppo di soldati in malattia, reclute dispensate dalla marcia, il giovane baccelliere e un anziano, che osservavano i preparativi del reggimento. «Avete visto, per caso, il maresciallo dall'oggio Saint-Loup?» mi informai. «È già sceso, signore», rispose l'anziano. «Io non l'ho visto», disse il baccelliere. «Non l'hai visto?» replicò l'anziano senza più curarsi di me. «Non hai visto il nostro grande Saint-Loup? Fa proprio colpo, non c'è che dire, con le sue brache nuove. Chissà quando lo vedrà il capitano, è stoffa da ufficiali quella». «Questa è buona davvero, stoffa da ufficiali», dissentì il giovane baccelliere, il quale, incamerata per malattia, non partecipava alla marcia e si sforzava, non senza qualche inquietudine, di fare il disinvolto con gli anziani. «Stoffa da ufficiali, ma sei una stoffa qualsiasi!» «Signore!» lo interpellò furente l'anziano che aveva parlato delle brache. Era indignato che il giovane baccelliere osasse dubitare della qualità ufficialesca della stoffa, ma essendo bretone e nato in un villaggio chiamato Pungern-Steredin, aveva imparato il francese non meno faticosamente di un inglese o un tedesco, e quando si sentiva in preda all'emozione diceva due o tre volte «Signore!» per darsi il tempo di trovare le parole, dopodiché, abbandonandosi alla propria eloquenza, si accontentava di ripeterne alcune che conosceva meglio delle altre, ma senza affrettarsi, prendendo le precauzioni del caso contro la sua scarsa abitudine alla pronuncia. «Ah, è una stoffa qualsiasi!» riprese con una collera la cui intensità aumentava di pari passo con la lentezza dell'eloquio. «Una stoffa qualsiasi! Se ti dico che è stoffa da ufficiale, se te lo dico, visto che te lo dico, è perché lo so, non ti pare? Siamo mica gente da raccontarci delle frottole da venditori ambulanti, noi!» «Ah, quando è così!» disse il giovane baccelliere, persuaso da quest'ultima argomentazione. «Toh, c'è giusto il capitano che sta passando!» «No, ma guarda un po', Saint-Loup, c'è solo lui che butta là la gamba in quel modo!» «E quella testa! Chi lo direbbe che è un sottufficiale? E il monocolo, poi, va un po' da tutte le parti!» Chiese ai soldati, per nulla imbarazzati dalla mia presenza, di poter guardare anch'io dalla finestra. Non me lo impedirono, ma nemmeno si scomodarono a farmi posto. Vidi il capitano di Borodino passare maestosamente al trotto del suo cavallo con l'aria di uno che si illude d'essere alla battaglia ad Austerlitz. Alcuni passanti si erano raccolti davanti al cancello della caserma per assistere all'uscita del reggimento. Impettito sul cavallo, il volto grassoccio, le guance di un'imperiale pienezza, l'occhio lucido, il principe doveva essere in preda a qualche allucinazione, come lo ero io quando il silenzio che subentrava a ogni fragoroso passaggio del tramvai mi sembrava percorso e striato da un vago palpito musicale. Ero desolato di non aver potuto salutare Saint-Loup, ma ciò nonostante partii perché il mio solo pensiero era di tornare dalla nonna. In quella cittadina, quando immaginavo la nonna da sola, fino al giorno prima me la raffiguravo così com'era con me, ma sopprimendo la mia presenza e non tenendo conto di quali effetti potesse avere su di lei tale soppressione. Adesso, invece, dovevo liberarmi al più presto fra le sue braccia del fantasma, insospettato e bruscamente evocato dalla sua voce, di una nonna realmente separata da me, rassegnata con una sua età, cosa che ancora non le avevo mai attribuita, e in atto di ricevere una mia lettera nello stesso appartamento vuoto dove, quando ero partito per Balbec, avevo immaginato la mamma. E fu proprio, ahimè, quel fantasma che videro i miei occhi quando, entrando nel salotto senza che la nonna fosse avvertita del mio ritorno, la trovai che stava leggendo. Io ero lì, o meglio, non c'ero ancora, perché lei non lo sapeva, e lei, come una donna sorpresa, mentre attende a qualche lavoro che nasconderebbe se arrivasse qualcuno, era in balia di pensieri che non aveva mai lasciato trapelare davanti a me. Di me, per l'effimero privilegio grazie al quale, nel breve istante del ritorno, ci è dato d'assistere improvvisamente alla nostra stessa assenza, non era presente che il testimone, l'osservatore, l'estraneo in cappello e soprabito da viaggio, colui che non è di casa, il fotografo venuto a ritrarre luoghi che non rivedremo mai più. E ciò che, meccanicamente, si formò nei miei occhi quando vidi la nonna fu appunto una fotografia. Le persone amate, noi non le vediamo di solito se non dentro il sistema animato, il moto perpetuo della nostra incessante tenerezza, la quale, prima di lasciare che le immagini proiettate dai loro volti giungano sino a noi, le attrae nel proprio vortice, le fa ricadere su ciò che da sempre ne pensiamo, le fa aderire a questa idea, coincidere con essa. Come avrei potuto, poiché alla fronte, alle gote della nonna, affidavo il compito di esprimere quanto v'era di più delicato e inalterabile nella sua mente, e poiché ogni sguardo che nasce dall'abitudine è una negromanzia e ogni viso che amiamo è uno specchio del passato, come avrei potuto non omettere ciò che in lei si era appesantito e mutato, se anche negli spettacoli più indifferenti della vita il nostro occhio, carico di pensiero, trascura, come una tragedia classica, tutte le immagini che non concorrono all'azione, trattenendo solo quelle che servono a illustrarci nel fine. Ma se, invece del nostro occhio, a guardare sarà un obiettivo puramente materiale, una lastra fotografica, allora ciò che vedremo, per esempio, nel cortile dell'Istituto, non sarà un accademico che, uscendo, tenta di fermare un fiacre, ma il suo vacillare, le sue precauzioni per non cadere all'indietro, la parabola della sua caduta, come se lui fosse ubriaco o il terreno coperto di una crosta di ghiaccio. Succede lo stesso quando qualche crudele astuzia del caso impedisce alla nostra intelligente e pia tenerezza d'accorrere in tempo per nascondere ai nostri sguardi ciò che essi non dovrebbero mai contemplare, quando quella è preceduta da questi, i quali, arrivati per primi sul posto e lasciati a se stessi, funzionano meccanicamente, come pellicole, e ci fanno vedere, al posto dell'essere amato che non esiste più da tempo, ma di cui la tenerezza non ci aveva mai consentito di scoprire la morte, l'essere nuovo che 100 volte al giorno essa soleva rivestire di una dolce e menzognera sembianza. E, come un malato il quale, non guardandosi da molto tempo e seguitando a comporre quel volto che egli non vede sulla base dell'immagine ideale che ne conserva il suo pensiero, indietreggia se scorge in uno specchio, nel mezzo di un volto arido e deserto, la sopraelevazione obliqua e rosata di un naso gigantesco come una piramide d'Egitto? Io, per cui la nonna non era altri che me stesso. Io, che l'avevo vista sempre soltanto nella mia anima, sempre allo stesso posto del passato, attraverso la trasparenza dei ricordi contigui e sovrapposti? Ora, d'improvviso, nel nostro salotto che apparteneva a un mondo nuovo, quello del tempo, quello dove vivono gli estranei di cui si dice invecchia bene, per la prima volta e solo per un istante, giacché ben presto scomparve, vidi sul canapè, sotto il lume, rossa, pesante e volgare, malata, perduta in chissà quali fantasticherie, gli occhi un po' folli vaganti oltre le pagine d'un libro, una vecchia donna prostrata che non conoscevo. Alla mia richiesta di andare da Madame de Guermantes per vedere gli Elstir, Saint-Loup aveva assicurato: «Ne rispondo per lei». E in effetti, sventuratamente, lui solo aveva risposto per lei. Non facciamo nessuna fatica a rispondere degli altri quando, disponendo col pensiero, le minuscole immagini che li rappresentano le manovriamo a nostro piacere. Anche allora, certo, teniamo conto delle difficoltà derivanti dal carattere di ciascuno, che è diverso dal nostro, e non manchiamo di ricorrere a questo o quel mezzo, interesse, persuasione, emozione, che possa efficacemente influire su di esso neutralizzando le inclinazioni contrarie. Ma queste differenze rispetto alla nostra natura, è pur sempre la nostra natura a immaginarle. Quelle difficoltà siamo noi a rimuoverle, quegli utili accorgimenti siamo noi a dosarli. E quando pretendiamo, quei gesti che dentro di noi abbiamo fatto ripetere all'altra persona e che la fanno agire a nostro piacimento, di farglieli compiere nella vita, tutto cambia aspetto. Ci troviamo a cozzare contro resistenze impreviste che possono rivelarsi invincibili. Una delle più forti è sicuramente quella che può nascere in una donna che non ama dal disgusto fetido e insormontabile per l'uomo che la ama. Nelle lunghe settimane durante le quali Saint-Loup continuò a disertare Parigi, sua zia, alla quale ero certo che gli avesse scritto supplicandola di farlo, si guardò bene dall'invitarmi in casa sua a vedere i quadri di Elstir. Mi giunsero segnali di freddezza da un'altra persona della casa, Jupien. Pensava forse che tornando da Doncier, prima ancora di salire, sarei dovuto passare a salutarlo? Mia madre mi assicurò che non si trattava di questo e che non c'era da stupirsi. Françoise le aveva spiegato che era fatto così, soggetto a malumori improvvisi e immotivati. Erano nubi destinate puntualmente a dileguarsi nel giro di pochi giorni.